RadioTube Social Network. Ragazzi, la seconda ora di RadioTube, io sono molto contenta perché, come sapete, da quando il nostro Daniele Bellasio si è trasferito in un'altra realtà lavorativa e neanche in un'altra città, io lo saluto sempre, ciao Daniele, io ho deciso di avere sempre al mio fianco dei co-conduttori d'eccezione. Questa settimana mica mi accontento di uno, questa settimana sono due. Allora, uno lo conosciamo già ed è Massimo Scaglioni. Ciao Massimo. Ciao Marta. Allora, Massimo Scaglioni, re degli ascolti televisivi, perché io me lo immagino sempre che lui la mattina alle 10, quando arrivano i dati Auditel, già non fa in tempo a vederli che ha già le statistiche. Li prevedo anche un po'. Ah, li prevedi? Ma fai delle scommesse? Sì, le abbiamo fatte con un po' di amici giornalisti, ah, capita. Vedi. Dai, insomma, docente di economia dei media, quindi ne sa. Allora, Massimo Scaglioni ha appena pubblicato questo The Walking Dead, contagio culturale, politica, post-apocalittica. Ve l'ho detto prima che avremmo parlato molto di The Walking Dead. Con un collega, e questa volta RadioTube è anche abbastanza internazionale, perché sì, lui è assegnista di ricerca presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Però adesso gli chiediamo anche da dove viene, pur parlando molto bene italiano. Buonasera, Dom Holdaway. Buonasera. Dom, di dove sei? Io sono cresciuto nelle periferie di Londra. Ah, ok, quindi abbiamo anche uno sguardo un po' internazionale sulle cose italiane, visto che parleremo di cinema e di cinema popolare e di TV, e quindi abbiamo anche uno sguardo un po'. Da quanto tempo sei studioso in Italia? Sono a Bologna da quasi 4 anni, nel 2014. Sì, allora sono tanti, però secondo me possono essere ancora, cioè puoi essere ancora stupito da alcuni fenomeni italiani. Sei stupito ancora da alcuni fenomeni italiani? Ogni tanto sì, ogni tanto capita che mi stupisce ancora. Ecco, questo è molto bello. Allora, cos'è successo questa settimana? Come sapete, in RadioTube Social Network guardiamo l'attualità della settimana attraverso la rete, attraverso lo sguardo di quello che è stato maggiormente commentato in rete e attraverso i video che sono stati maggiormente diffusi. Molti di questi arrivano dalla televisione. Approfittiamo della presenza di Massimo e di Dom per parlare molto di meccanismi televisivi questa settimana. Allora, la politica questa settimana, insomma, politica e comunicazione sono sempre interconnesse. Questa settimana più che mai, cosa è successo? Mostriamo subito un video dalla radio di uno degli eventi politici della settimana. I tempi erano difficilissimi, in famiglia c'era solo mia madre che lavorava venendo tutte le mattine a Milano, sobbalcandosi 3 chilometri a piedi, più un pullman, più il treno dei pendolari, e avevamo in casa i nonni e quindi vivevamo nelle ristrettezze. Io cercavo di fare qualche cosa per aiutare la gestione familiare, così per esempio andavo in una fattoria dove mettevo a posto, scopavo il cortile, rassettavo tutto, e a 8 anni imparai anche a mungere le mucche. E come compenso mi davano quella che si chiamava una calderina di cagliada, che è il latte cagliato. E alla sera, per tutti quegli anni, noi mangiavamo pulente e cagiada. Pulente cagiada, che è una cosa, Dom, è una cosa che si mangia nella zona di Milano, ma non solo, insomma, in Lombardia. E Massimo, che cosa possiamo dire? A me sembra che questa settimana abbiamo azionato la macchina del tempo. Sì, anche a me sembra, effettivamente. Diciamo che da un lato abbiamo visto di nuovo un Berlusconi che utilizza le sue armi più classiche, insomma, no? Parla della sua vita personale, parla del passato. Intervistato da Costanzo, insomma, più o meno coetanei, mi è sembrato davvero un ritorno al passato, e devo dire che in questo periodo, forse l'avevamo già osservato qualche settimana fa. In questo periodo non è che la politica in televisione stia funzionando tantissimo. E infatti, insomma, questa intervista in prima serata, addirittura messa in prima serata, d'altra parte, insomma, era il fondatore di Mediaset, insomma, quindi in prima serata addirittura, cosa che a Costanzo non capita più tanto spesso, ecco. Ma non, insomma, non ha molto retto la prima serata, perché gli ascolti sono stati poco superiori all'8%, e diciamo Canale 5 viaggia su delle medie che sono del 16-17%, quindi insomma Ma questo non riguarda soltanto Berlusconi e questa intervista. Diciamo che in generale in questo momento sembra che ci sia un po' una fuga dalla politica in televisione. I talk non stanno andando molto bene. In rete però se ne parla moltissimo. In questo periodo in rete si parla moltissimo di questo confronto Renzi-Di Maio. Ecco, Di Maio ne ha parlato proprio così. Io vi dico una cosa, non ne posso più della loro ipocrisia, per questo ho sfidato Renzi ad un confronto, lui ha accettato e martedì ci sarà questo confronto. Ho sfidato Renzi, intanto diciamo che le parole sono importanti, quindi ho sfidato Renzi ha una sua è significativo. Allora, questo dibattito in rete su dove si farà il confronto, tutti si sono fatti avanti, soprattutto via Twitter, no? Bruno Vespa, io lo posso ospitare, cioè tutti. Ma secondo te, Massimo, cambierà il contenuto del dibattito a seconda di quale sarà il contenitore, cioè di quale rete? Direi assolutamente di sì, e lo è sempre stato così sostanzialmente. Il contenitore nel quale il dibattito avviene è molto importante, e man mano che, diciamo così, il dibattito politico si fa più rilevante, quindi per esempio quando ci si avvicina alle elezioni, o penso ad esempio per citare un esempio alto, i dibattiti preelettorali negli Stati Uniti, i dibattiti presidenziali, più il contesto cerca di essere molto asettico, si cerca appunto un po' di togliere, di dare lo stesso tempo alla confronto di Sky TG24 in Italia, okay. In parte anche ai mitici confronti che sono stati quelli tra Berlusconi e Prodi negli anni passati, il tentativo appunto di dare lo stesso tempo, il tentativo di magari evitare che ci siano delle clac contrapposte o sproporzionate, perché poi alla fine il pubblico in studio insomma arriva un po' quel che arriva e quindi non si sa bene che orientamento ha, quindi sicuramente l'effetto finale in termini di comunicazione c'entra molto col contenitore. Vedendo le puntate di martedì, quindi le puntate del programma di Floris, mi aspetto sempre che ci sia un po' una certa qual simpatia nei confronti del candidato di 5 Stelle, però insomma staremo a vedere. Secondo te i 5 Stelle hanno accettato la 7 perché la 7 è forse più accogliente, possiamo dire così? Sì, non tutta la 7, però certamente alcuni programmi della 7 hanno mostrato una particolare simpatia nei confronti di tesi, anche, dicevi tu giustamente prima, no? Ho accettato di sfidare, quindi di un atteggiamento che sarà secondo me molto aggressivo di Di Maio e in generale insomma dei 5 Stelle nei confronti inevitabilmente di chi rappresenta poi alla fine, seppur con tutte le differenze, ma insomma rappresenta il principale partito che sostiene il governo. Quindi sicuramente ci sarà un maggiore tentativo di attaccare, anche se poi Renzi è uno che un po' alla Berlusconi, insomma, non si fa molto attaccare, ma reagisce allo stesso modo. Quindi sarà molto interessante vedere come andrà. Secondo te l'obiettivo di ascolti, cioè farà i soliti ascolti di martedì, o la gente girerà sulla 7 di più? No, secondo me in questo caso si definirà un po' l'evento. Forse, ripeto, siamo in un periodo di calo della politica in televisione, però effettivamente un confronto di questo tipo è un confronto molto interessante dal punto di vista dello spettatore e in generale del cittadino, perché non li abbiamo tanto visti. I 5 Stelle hanno avuto un po' delle strategie diverse nel corso degli anni, adesso sono più presenti in televisione, però appunto un bel confronto in diretta è un bel evento. Vabbè, saremo tutti lì a vederlo. Dom, a te che effetto fa questa politica in televisione italiana? Con che sguardo la guardi? All'inizio ha fatto un po' un effetto un po' strano, diciamo, perché è completamente diverso dall'Inghilterra. In Inghilterra è tutto molto più formalizzato, accade tutto quanto sui giornali più o meno. Poi, quindi non ci sono questi talk show? No, nello stesso modo, no. Abbiamo una tradizione di talk show molto diversa, un po' più trash, sinceramente. Martedì, Ballarò, Porta a Porta? No, non proprio. Infatti è una cosa che ho fatto un po' di fatica a capire quando sono arrivato Allora, funziona tutto in Italia, caro Dom, soprattutto funziona tutto al TG della 7, e quando il TG della 7 ha qualche problema, il suo direttore Enrico Mentana si arrabbia molto. Vabbè, ascoltiamolo, poi il traffico e poi saremo ancora insieme. In Sicilia Berlusconi lancia la candidatura Musumeci, ma soprattutto si attende, qui mentre qui vediamo delle immagini che non c'entrano assolutamente nulla, sono quelle riguardanti la vicenda di Manhattan dell'altro giorno, cioè, non è certo la Sicilia non è certo la vicenda. Vabbè, torniamo in studio, è inutile fare queste cose, diventa ridicolo. Ogni tanto capita. Vabbè, vogliamo far vedere tutto? Irto di scherzetti, in ritardo rispetto a Halloween, lo scorrere dei titoli, mi scuso ovviamente con i telespettatori, a ranghi più ridotti adesso sarà la nostra compagine qui tecnica, no, stiamo ovviamente scherzando, ma andiamo seriamente ai fatti principali della giornata. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Radio Tube Social Network. Allora, siamo pronti per incontrare gli zombie? Siamo pronti per incontrare i The Walking Dead? Eccoli qua. Voglio solo che ti entri in testa e che tu ci rifletta per un minuto. Ucciderò Carl e poi Lucille si prenderà le tue mani. Puoi farlo proprio davanti a me. Puoi prendere le mie mani. Te l'ho già detto. Io ti ucciderò. Vi ucciderò tutti. Magari non oggi, magari non domani. Ma niente cambierà questo fatto, niente. Siete già tutti morti. Allora, io già ho paura perché sono molto facilmente impressionabile. Parliamo di The Walking Dead, serie televisiva statunitense prodotta dal 2010, ideata dal regista Frank Darabont e basata su un'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. Ne abbiamo parlato poco fa, ospite a Lucca Comics ce ne ha parlato Gian Maria Tammaro. Allora, insomma, un sacco di serie, un sacco di morti che camminano, The Walking Dead. Del 2017-2018 c'è l'ottava stagione, ma non è finita qui. Io non sono una grande conoscitrice di The Walking Dead. Allora, cosa ho fatto? Mi sono messa a studiare questo libro, The Walking Dead, contagio culturale e politica post-apocalittica, appunto, di Massimo Scaglione e di Dom Holloway, che sono qui con noi. Ancora ciao. Eccoci. Massimo, ancora ciao, ciao. Dom. Allora, ragazzi, raccontatemi un po'. Intanto The Walking Dead parla di zombie. So che ci sono anche dei problemi lessicali su come poteva essere tradotto in italiano, però diciamo che gli zombie sono quelli che conosciamo tutti. Grande tradizione, perché si inseriscono in un'eredità complessa. Risponda a chi vuole, tanto abbiamo tutti i microfoni accesi. Magari Massimo, Dom. Comincio e poi mi ecco. Aggiunge. C'era una bella tradizione già di zombie. Sì, assolutamente. Noi nel libro abbiamo parlato di una mitologia plasmabile, perché nel corso di 70-80 anni, in realtà il primo film americano sugli zombie è un film del 1932 che si intitola White Zombie, l'isola degli zombie, e da lì in avanti, attraverso il cinema, attraverso i fumetti e poi i film di Romero e insomma, fino ad arrivare appunto ai videogiochi, fino ad arrivare alla televisione, ma solo recentemente in realtà alla televisione. E questa è una cosa interessante, perché quando la serie viene prodotta nel 2010, la serie va in onda il primo episodio il 31 di ottobre, quindi ad Halloween nel 2010, giusta, una cosa assolutamente pensata, e c'era un po' di scetticismo sull'idea di fare una serie sugli zombie. Perché? Perché lo dice bene un critico americano che si chiama Alan Sepinwall, che aveva visto il pilot qualche giorno prima. Il pilot, cioè la prima puntata. E diceva, vabbè, ma forse c'è una ragione per la quale non si è ancora fatta una serie, diciamo un prodotto di lunga serialità sugli zombie. Perché gli zombie funzionano bene come una minaccia immediata, come qualcosa che spaventa i protagonisti e poi in questo modo anche gli spettatori. E quindi una storia che si risolve nelle due ore di un film. Ah, ok. E invece... cioè la classica coppietta che passeggia e arrivano gli zombie, succede di tutto ma poi finisce. E infatti questo scetticismo aveva portato poi ad una gestazione molto lenta, perché Darabont e Kirkman parlano di sviluppare una serie già nel 2005, vanno dalla NBC e la NBC gli dice, beh, bella storia, ma ci devono proprio essere anche gli zombie. No! si chiama Walking Dead, ragazzi. Esattamente. Però attenzione, qui lascio poi a Dom, in realtà Walking Dead diventa una serie sugli zombie, ma solo relativamente, perché sposta molto l'attenzione dagli zombie ai sopravvissuti. E gli zombie sono più che altro una condizione esistenziale, una condizione esistenziale nuova, di una società nuova, nella quale in maniera molto... Il pezzo che avete selezionato prima è un pezzo molto bello, di un confronto fra due protagonisti della serie, uno molto, uno buono e l'altro molto cattivo, e diciamo la condizione esistenziale nuova nella quale l'uomo si trova è una condizione nella quale sostanzialmente la scelta è molto secca, c'è un fortissimo pessimismo a mio avviso, cioè o uccidi o sei ucciso. Quindi c'è questo tema dell'uso della violenza che è estremamente centrale nella serie, e su questo poi si sviluppa una serie di questioni anche di rappresentazione della politica su cui poi Dom ha molto lavorato. Ecco, Dom, cioè nel senso che è una metafora di una situazione reale della politica, cioè quelli che sopravvivono devono riorganizzarsi e in realtà sta raccontando qualcos'altro questo The Walking Dead. Sì, direi di sì. Quello che abbiamo un po' studiato appunto nel libro, questa cosa molto interessante del Walking Dead, come ha detto Massimo, è che sposta un po' il focus. Se ci facciamo un confronto con la storia dello zombie nel cinema, per esempio, vediamo uno spostamento di focus appunto sui sopravvissuti. E visto che, come hai detto, The Walking Dead va avanti da molto tempo, siamo arrivati al centesima puntata all'inizio dell'ottava stagione, c'è bisogno di portare avanti la narrativa, c'è bisogno di introdurre delle cose un po' più interessanti. E The Walking Dead riesce a fare questa cosa creando diversi gruppi di sopravvissuti, che ovviamente nella situazione post-apocalittica molto difficile combattono tra di loro, litigano molto per poter sopravvivere, insomma. E questa cosa è molto interessante in quanto riflette in un certo senso un'idea della società americana attuale. Mm-hmm. Perché se noi pensiamo all'America attuale di Trump, quello che ha, ma anche più di Trump, molto preoccupato delle armi, della protezione, del libertarianismo, è una cosa che assolutamente diventa centrale a The Walking Dead. Vediamo queste comunità che, come dicevo, combattono tra di loro, che creano delle comunità chiuse, mura. Avere delle pistole, per esempio, è importantissimo. E c'è un tema che va avanti in tutta la stagione, in tutte le stagioni, che è molto interessante, che è appunto questa cosa che o uccidi o morirai. Okay. E quindi diventa una questione difficile anche per i sopravvissuti, soprattutto quelli un po' più liberali, che non vogliono per forza uccidere altri esseri umani, e che è una cosa che si può anche capire, e invece devono per forza farlo, devono imparare questa lezione se vogliono sopravvivere. Ah, quindi un'allegoria della politica. La cosa attuale, drammatica, credo, Marta, per chi ha un po' si affeziona a certi personaggi, è il fatto che in The Walking Dead inesorabilmente i personaggi migliori sono destinati a fare una brutta fine. No. Perché quelli invece che imparano la lezione, e devo dire, a me la serie piace molto, abbiamo appunto deciso di lavorarci perché è una serie che non ha non ha un atteggiamento manicheo, c'è una fluidità tra il bene e il male, e soprattutto c'è un gioco. Prima avete appunto preso un pezzo di due personaggi, uno in teoria buono, l'altro molto cattivo, ma in realtà ci sono delle sovrapposizioni. Anche il personaggio, il protagonista Rick Grimes, che è il poliziotto buono, in realtà a volte, proprio per via della condizione esistenziale nella quale si trova, questa idea di o uccidi oppure rischi di mettere a repentaglio la vita tua e dei tuoi parenti, dei tuoi amici, si trova a dover fare delle scelte moralmente molto problematiche, molto ambigue. Quindi la possibilità di eccedere nella violenza è una possibilità sempre all'ordine del giorno in The Walking Dead, e questo secondo me, come anche diceva ora Dom, rappresenta davvero molto bene una serie di ansie e di paure che sono proprie della società americana contemporanea, e in fondo sono quelle che hanno portato... The Walking Dead parte nel 2010, ma hanno portato poi alle elezioni di Donald Trump. Ah, quindi insomma devo dire che sta raccontando perfettamente la politica parlando di altro. Rete, social network, rete, che sono un po' il pane del nostro RadioTube social network, passa tanto attraverso la rete il contatto tra i fan e anche con la produzione della serie. C'è un rapporto molto stretto, c'è addirittura ho scoperto che esiste uno spazio di discussione che si chiama Talking Dead. Beh, fantastico. Sì, Talking Dead è il programma che mettono in onda subito dopo la puntata su AMC negli Stati Uniti, cosa anche molto popolare, di solito la cosa più vista su AMC, anche sul cavo negli Stati Uniti, dopo soltanto The Walking Dead, quindi molto seguito, in cui ci sono gli attori. Per esempio nella puntata della settimana prossima ci sarà Norman Reedus, che fa il personaggio di Daryl, che è uno dei preferiti dei fan. E i fan, già per esempio adesso c'è il call dai produttori che chiedono ai fan di mandare domande. Cioè in rete mandano loro domande. Sì, e poi c'è la discussione appunto con gli attori, con i produttori, con tutti. Anche Kirkman per esempio ci va spesso. C'è lo spiegone del bello. Sì, a discutere anche interpretazioni dei personaggi che va un po' oltre o il fumetto o il programma, è molto interessante. Il fandom è diventato talmente importante che se all'inizio la serie veniva promossa come una serie sugli zombie, una serie horror, recentemente sia negli Stati Uniti AMC, ma poi se ci pensi anche in altri paesi e anche in Italia, si è promossa la serie a partire dal grandissimo fandom che ha generato, dalla grandissima presenza di fan che poi peraltro sono quelli che in questi giorni sono stati a seguire Robert Kirkman. E quindi diciamo il fandom di The Walking Dead è molto particolare, ma molto molto acceso e molto importante. Vi chiedo l'ultima cosa che a me ha incuriosito molto: non ne parliamo quasi mai, parlando spesso di serie TV, però è un aspetto che sfugge, invece è un aspetto estremamente importante. Voi ne parlate proprio nel libro delle fan fiction. Che cosa sono le fan fiction? Allora, le fan fiction sono praticamente le storie scritte dai fan, spesso femminile, ma non sempre, quindi dalle fan, che ritrattano i personaggi della serie TV o del fumetto in una storia di per sé. E spesso fanno questa cosa, è una tendenza molto molto comune per questo tipo di finzione, che si chiama Mary Sue, in cui la scrittrice si inserisce nel mondo della finzione. Quindi non sono solo delle storie ispirate alla finzione con i personaggi, ma a volte chi scrive ci si... Sì. Beh, ma è bellissimo, anche io voglio scrivere delle fan fiction e inserirmi in qualche... Ma sono belle! È segno, come sempre, ma non solo per The Walking Dead, anche per serie precedenti, proprio della generazione del culto. Cioè, ecco, dove si crea il culto mediale, si genera fan fiction. Era il caso di Buffy the Vampire Slayer, in cui c'era una fortissima attività di creazione di fan fiction, in cui a volte, fra l'altro, è molto divertente leggere il fan fiction, perché a volte i fan portano la storia su versanti completamente diversi, lontani dalla serie, immaginando relazioni strane tra i personaggi, immaginando cose che nella serie non sono presenti, ma danno il là ad una straordinaria attività di immaginazione. E si trovano in rete queste fan fiction? Si trovano da tutte da in rete, sì, assolutamente. Sono tutte ovviamente, anzi, addirittura il caso di Mary Sue è un caso in cui c'è un lavoro collaborativo, no? Giusto, Dom? Sì. Quindi diciamo che non posso, puoi anche non soltanto leggerle, ma puoi anche collaborare a mandare avanti la storia. Beh, è pazzesco, perché appunto sono delle cose che soprattutto fanno queste nuove generazioni e che se noi non conosciamo veramente rimaniamo tagliati fuori. Bellissimo, la fan fiction, imparate questo tema, questo termine. Praticamente si prendono i personaggi di una serie e ci si immagina, così si fa, gli autori di una storia anche completamente diversa e magari anche con se stessi dentro. Fantastico, sto pensando di quale serie potrei fare adesso io una fan fiction, al momento non me ne viene in mente neanche una. Ma adesso, allora, c'è una breve pausa, ci penso e poi vi dico di cosa scriverei una fanfiction io, poi lo chiedo anche a voi. Okay. Allora, pausa e ci troviamo ancora insieme. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Radio Tube Social Network. Eccoci qua, stavamo sorridendo perché, tra l'altro, cioè tuo papà ti sta ascoltando dall'Inghilterra, però non parla l'italiano. No, detto... Vabbè, salutiamolo in Inghilterra che ci sta ascoltando, poi gliela tradurrai. Allora ragazzi, abbiamo parlato tanto di The Walking Dead e insomma è bella questa cosa. La guarderò con occhi completamente diversi della metafora, della grande metafora della politica americana. Una serie TV molto interessante, però ci eravamo lasciati con un interrogativo: su cosa fareste voi una fan fiction, cioè una storia immaginata con i personaggi della serie TV? L'abbiamo spiegato cosa sono queste fan fiction. Massimo, tu? Oh, ti do una risposta doppia. La prima è che mi piacerebbe stare nel mondo di Lost, perché è una serie che ho molto amato, anche se in realtà è un po' inquietante finire certo su quell'isola. E l'altra risposta invece un pochettino più tranquilla è dentro una sitcom, perché mi divertirei molto, per esempio dentro Friends. Ah, beh, fantastico. Dom? A me invece ha affascinato tantissimo il mondo di Sense8 su Netflix, quindi mi piacerebbe trovarmi in quel mondo lì, credo. Fantastico. Io di oggi forse, sempre su Netflix, Unbreakable Kimmy Schmidt, vorrei avere a che fare con Kimmy Schmidt, un po' pazza, un po' capitata sulla terra per caso. E poi, boh, non lo so, mi concedete la banalità più grossa di tutte le banalità? Sex and the City, ragazzi. Va bene. La banalità più banale. Allora, adesso vorrei raccontarvi una bella storia. Abbiamo festeggiato i 40 anni di Figli delle Stelle e questo l'abbiamo fatto nella prima ora. Però c'è un altro 40esimo anniversario che scatena molti ricordi in tutti coloro che hanno più di una certa età e abitano o abitavano all'epoca nel nord Italia, ma è una storia che riguarda un po' tutta l'Italia. Il 3 novembre 1977 succedeva questo. Signore, signori, buonasera e benvenuti ad Antena 3. I due minuti che io vi ruberò vogliono soltanto essere il grazie che io vorrei dare a tutti coloro che hanno voluto questa emittente. Il grazie a tutti i collaboratori, il grazie innanzitutto ai 130 soci che hanno creduto in questa iniziativa, il grazie agli artisti, ai collaboratori, ma la persona che considero quello che ha voluto veramente Antena 3 Lombardia, la persona che ha dato il maggior contributo ad Antena 3 Lombardia, Enzo Tortora. Io devo dire e ringraziare tutti. Vi prego di credere che anche chi fa per professione spaccio di parole, in certe occasioni, soprattutto quando piove e quando si vive un 3 novembre come questo, beh, le parole è difficile trovarle. Allora, la nascita di Antenna 3 Lombardia, che simboleggia un po' la nascita delle TV private in Italia. Fatemi fare una segnalazione alla quale tengo molto. Si apre il 6 di novembre presso lo spazio eventi di Palazzo Pirelli la mostra Ti ricordi quella sera? Ed è una mostra che racconta proprio la nascita di questa TV privata e la nascita che davvero suscita molti ricordi in tanti che l'hanno vissuta e a quelli che non l'hanno vissuta. Cosa possiamo dire, Massimo? Che Massimo Scaglioni, ve lo presento nel caso in cui non fosse state ancora con noi o non l'aveste mai sentito, perché noi lo chiamiamo spesso. Buonasera. Docente di economia dei media all'Università Cattolica di Milano. Che cosa rappresenta Antenna 3 Lombardia? Così lo spieghiamo agli ascoltatori che venissero da altre regioni, ma anche a Dom Holdaway, che insomma è inglese, studioso a Bologna, ma è inglese. Antenna 3 rappresenta un periodo che gli storici potrebbero definire esplosivo nella storia, diciamo, della comunicazione dei media in Italia. Un periodo che inizia sostanzialmente con la metà degli anni 70, 75-76, con una serie di sentenze della Corte Costituzionale che liberalizzavano l'etere, quindi mettevano fine, diciamo, al monopolio della RAI, del servizio pubblico, e spalancavano le porte ad una televisione completamente diversa. Questo periodo in realtà si conclude circa una decina d'anni dopo, attorno all'83-84, quando la televisione trova un riassetto sul duopolio RAI-Mediaset. E però quel periodo lì è stato un periodo veramente straordinario, perché è un periodo di straordinaria creatività, una televisione che non era più la vecchia televisione, la vecchia RAI un po' ingessata ormai, che aveva un po' perso perché era un po' legata a quella dimensione ancora pedagogica, e non è ancora quella televisione del marketing di cui sarà, diciamo, massima rappresentante Fininvest e poi Medias. Quindi una televisione fatta di un'esplosione di programmi, un'esplosione di volti nuovi, la comicità, i generi, io direi un momento artigianale della nostra industria culturale, che però, diciamo, ha previsto anche tutta una serie di cose che sarebbero accadute dopo, e anche ha fatto un po' da transizione, perché abbiamo sentito Enzo Tortora e abbiamo sentito, fatemi citare, Renzo Villa. Che era il patron, esatto, di Antenna 3, che era sia il fondatore che uno dei volti più popolari, perché conduceva il Bingo, che era una trasmissione molto amata in quegli anni. E in quegli anni, diciamo, Antenna 3 crea una serie di trasmissioni che rimangono davvero un po' nella mitica, nella nostra memoria. Allora, diciamo questa cosa, diciamocelo. Io mi diverto molto a cercare in rete anche questi filmati d'epoca, e so che è un hobby che hanno in tanti, perché su YouTube si trovano tanti spezzoni, eccetera. Lo ascoltiamo, mostriamo alla radio questo spezzone, che secondo me sono quelli che vengono cercati più di tutti in rete. Eccoli qua. Thank you. Allora, questa era la sigla di uno dei, di una delle trasmissioni più famose di Antenna 3. Allora, due paesi, se non mi ricordo male, si sfidavano. C'erano dei giochi e la gente tifava, la gente era estremamente appassionata di questa trasmissione che si intitolava La Bustarella ed era condotta da un personaggio popolarissimo che è ancora molto molto molto amato. Buonasera Ettore Andenna, buonasera Ettore! Ciao Marta, eccolo qua. Ciao a tutti gli amici di Radio Sole 24. Grazie, bentornato Ettore, bentornato. Vi stavo seguendo da 20 minuti, quindi vi ho sentito parlare di fanfiction. Beh, noi scriviamo sempre un po' prima gli ospiti per essere sicuri che ci siano, non è che siamo... Sì, sì. Allora, Ettore, ha detto bene Massimo dell'importanza di Antenna 3, secondo te? Beh, ha cambiato il modo, ha detto benissimo, perché ha cambiato il modo di fare la televisione in Italia. Soprattutto in quel caso possiamo parlare, abbiamo realizzato delle cose da fan show. Quindi noi sognavamo degli spettacoli che non avremmo potuto realizzare da altre parti e invece Renzo Villa, che fu veramente un genio in quello, spinto da questa sua voglia di creare qualche cosa di nuovo, si contornò di questi personaggi fra i quali sottoscritto e gli disse: carta bianca. È una cosa rarissima, non si è mai più verificata una cosa del genere. Sta rischiando di verificarsi ancora adesso, perché ti do una chicca: c'è un amico folle che ha comprato una televisione, mi ha chiamato e mi ha detto... Oh, vabbè, dai, fantastico! Te la sentiresti? Gli ho detto, parliamo! Beh, senti, questo sarebbe un'ottima notizia. Ettore, ma voi vi inventavate dei format che poi sono entrati nella televisione italiana? Anzi, magari qualcuno poi è stato definito format straniero, invece voi... Come vi venivano in mente? Venivano in mente sull'esperienza, cioè all'epoca c'era il culto di fare quello che noi ritenevamo piacesse alla gente, cosa che non si fa più. Oggi si fanno cose che interessano a chi le produce e vengono imposte alla gente, invece all'epoca c'era proprio una simbiosi con il pubblico e il pubblico questo lo apprezzava e man mano che vedevamo che il pubblico ci stava, noi venivamo sempre più stimolati. E poi si giocava sull'esperienza. Io ricordo la primissima trasmissione pubblicitaria che partì su Telealto Milanese, che era Settimo Round, che andò avanti su Antenna 3 fino al 79, poi dopo venne traslata lì, però era la partecipazione diretta del pubblico, per cui non c'era più questa separazione tra il video e il salotto di casa, ma la gente entrava direttamente nella televisione e partecipava. Il partecipava anche quello. Ai giochi. Allora, certo. Questa Bustarella aveva la partecipazione del pubblico. Vabbè, lo sappiamo che poi qualcuno si ricorda la Bustarella anche perché aveva anche degli aspetti che all'epoca facevano un po' scandalo, che adesso farebbero ridere, perché ormai lo scandalo va molto oltre. Però... Io già all'epoca li avevo definiti goliardi, ecco. E io ho spiegato anche come avvenne questa cosa. C'era qualche topless, diciamo così. Sì, ma diciamo che io capii tutto quando stavamo facendo un gioco, c'era una ragazzina di 16-17 anni che, siccome doveva andare in piscina a recuperare della roba, era ovviamente in bikini e c'erano i genitori in prima fila. Questa, mentre correva per recuperare queste cose nella piscina, le si ruppe il reggiseno, per cui rimase con seno al vento e attimo di terrore. Beh, da parte, certo, di tutti. Ovviamente. I genitori in prima fila, mamma e papà, dai, no, vai avanti, no, che tanto in spiaggia sei sempre così. E lì ho capito tutto, perché non c'era una forma di pruderie, era una cosa naturale, era successo. Da quel momento lì, diciamo che qualche volta l'abbiamo provocato, ma lasciavamo che le cose si svolgessero secondo quella che era l'indole del gioco, anche perché fra gli autori c'era Poppi Perani, che era l'autore principe di Giochi Senza Frontiere. Certo. Sai quante cose abbiamo sperimentato in Bustarella che poi abbiamo riportato in Giochi Senza Frontiere? Massimo, interessante questa cosa della TV locale come palestra per sperimentare, questa cosa non c'è più. No, mi colpisce molto quello che dice adesso Andenna, perché effettivamente quella televisione, io prima dicevo una televisione artigianale, no? Però una televisione artigianale fatta da autori, conduttori che intuiscono le cose che stanno succedendo. Non c'è bisogno del marketing, non c'è bisogno della ricerca. In quel periodo lì c'era appunto questa capacità di intuire, soprattutto di intuire che la società stava cambiando. Mi veniva in mente un altro programma molto famoso di Antenna 3, che era il Pomofiore. Certo, Lucio Flauto. Esatto, nel quale, diciamo, un talent nel quale venivano lanciati degli ortaggi ai concorrenti. O fiori o pomodori. ecco, pensa che un programma simile, diciamo, era stato provato, in cui, diciamo, ai concorrenti veniva data delle punizioni un po' così esemplari, già negli anni 50 con 200 al secondo, ma la Rai lo chiude prestissimo, ma perché non era ancora possibile farlo. Alla fine degli anni 70 si capisce, e questi autori capiscono, intuiscono, che la società sta finalmente cambiando, si sta evolvendo, e quindi questo è possibile fare un tipo di programmi di questo genere, meno paludati, ecco. Che meraviglia. Ettore, allora io voglio rilanciare ancora questa mostra che sarà allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli fino al 30 novembre, viene inaugurata il 6 e poi noi ci vediamo il 15, perché ci sarà un bel convegno, perché è davvero importante recuperare la memoria di queste TV locali, perché sono un po' il gradino su cui si sono fondate tante idee della televisione di oggi, e magari da cui si può anche ripartire per ritrovare, come diceva Massimo Scaglioni, il polso del pubblico. Grazie Ettore, allora a presto, e poi voglio sapere tutto quando ricominci questa avventura, non vedo l'ora. Ok, te lo faccio sapere. Salutami tutti, Massimo, e tutto il pubblico. Grazie Ettore Andenna, allora a prestissimo. Che bello questo ritorno di Ettore Andenna. Io non vedo l'ora, perché io poi ho una nostalgia delle cose bellissime. Ce lo ricordiamo in Giochi Senza Frontiere. Ragazzi, un grandissimo conduttore, Don, poi ti spieghiamo chi è Ettore Andenna. Allora facciamo una breve pausa e poi parliamo di cinema, perché Dom Holdaway, nonostante sia inglese, ha una certa propensione per un certo cinema italiano. Vabbè, ne parliamo tra poco. Attenzione, 3, 2, 1. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business, vi presenta Radio Tube Social Network. Abbiamo parlato di televisione, di ieri, di oggi, di serie TV, abbiamo parlato di comunicazione politica, ovviamente anche con un po' di sorriso, perché sono tutte le notizie un po' che sono viaggiate attraverso la rete in questo periodo. Ma si è parlato molto di cinema in questi giorni, perché lo abbiamo detto abbondantemente nella prima ora, quella di Radio Tube Social Village, c'è stata la Festa del Cinema di Roma, proclamato oggi il vincitore del pubblico, fantastico, sono contentissima, Borg McEnroe, grandissimo film. Ma è stato anche proposto un restauro, perché dopo, insomma, qualche annetto torna restaurato un capolavoro, Borotalco. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi... Sono stato con le donne. Con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci 2 volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga. Ricorderò ancora la sera della prima a Roma, al Cinema Corso, io e Oldovini dietro un angolo, veramente tutti e due dovevamo andare al bagno perché eravamo talmente nervosi, ma talmente nervosi che aspettavamo l'uscita dello spettacolo delle 20:30 e non c'era né un bagno né una trattoria né niente, e facevamo a gara chi avrebbe avrebbe ceduto per primo. A un certo punto vedemmo la gente uscire, a quel punto ci sentimmo male, ci coprimmo, però una coppia passò e disse: ammazza, me sono morto dai risate. A quel punto, quando ho sentito quella frase, mi sono sentito alleggerito di 100 kg, ho detto forse ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta. Non potevo non farla dire agli stadio questa, grandissimi stadio, vabbè, la parola accetta, ma era una canzone. Dom, tu che sei un esperto di cinema popolare italiano e che lo guardi appunto con lo sguardo di un inglese, sì. Borotalco, 1982, 35 anni fa, adesso restaurato, cosa pensi di questo film? Beh, penso che sia un film ovviamente da un lato divertentissimo, molto divertente. A volte la commedia per uno straniero può essere un genere un po' difficile, però diciamo che il senso di umorismo, sì, di Verdone la, la commedia poi racconta molto del paese, sì, e dell'epoca. Infatti è difficile distribuire all'estero le commedie di solito. Però questo film qui c'ha ovviamente delle cose che ho capito essendo stato in Italia per 4 anni ormai, altre cose che sono universalmente divertenti. Però una commedia importantissima anche all'interno della carriera di Verdone, perché appunto è il momento in cui lascia dietro le commedie agli episodi, o in cui ha insomma diversi personaggi, certo, per introdurre questo nuovo personaggio, reinterpretando un po' la tradizione dell'inetto della commedia all'italiana. La tradizione dell'inetto alla commedia, bravo, da vedi che quando senti parlare uno straniero di noi capisci le cose, capiamo noi stessi vedendoci dagli occhi. Allora, io cercavo questi pezzettini di Borotalco e ovviamente su YouTube ne ho trovate centinaia, perché ci sono delle battute che sono passate assolutamente alla storia. Assolutamente, cioè, dei culti. Cioè, non lo so, effettivamente è un film che non ha, cioè, dal quale non si può prescindere. Però io vorrei recuperare un altro pezzettino di un'altra dichiarazione di Carlo Verdone, sempre alla Festa del Cinema di Roma, perché gli hanno chiesto oggi Sergio e Nadia chi sarebbero, eccoli qua. Non lo so chi potrebbero essere oggi Sergio e Nadia. Sicuramente c'era più leggerezza all'epoca. Oggi sarebbe tutto quanto con meno leggerezza, molti problemi in più, quelle chiacchierate a casa di Nadia da tutti gli amici, no? Che sono un po' mitomani, sono un po'... Oggi no, non ci sarebbe come minimo qualcuno che se fa le canne da una parte, ci sarebbe sicuramente un problema di qualcuno che è depresso. La società è molto cambiata, ci sono dei problemi in più. Beh, insomma, una nota un po' amara da parte di Carlo Verdone, però anche nei momenti delle difficoltà il cinema italiano ha dato cose buone, vero Dom? Sì, sì, esattamente, sì, è così. Soprattutto per quanto riguarda la commedia, se pensiamo sempre alla tradizione della commedia italiana che è uscita ai tardi anni 50, all'inizio del boom economico, si vede un legame molto stretto a momenti di difficoltà. E le grandi commedie. Che meraviglia, sì. No, mi piaceva così riparlare di questo Borotalco, perché abbiamo seguito questa settimana Carlo Verdone, abbiamo visto il restauro e poi davvero, cioè, io mi sono divertita a recuperare gli audio poi su di YouTube. Nuovo quegli anni lì, come degli anni che abbiamo citati prima per Antenna 3, ma fine anni 70, inizio anni 80, fino diciamo a metà degli anni 80, anni di straordinaria creatività. Lì rinasce la commedia, Verdone, appunto attore, autore, ma giù di lì pure Benigni con Tumi Turbi, sì, sì, sì. Che poi segnano tutto il cinema, la commedia italiana negli anni successivi, quindi un momento di straordinaria creatività. Che meraviglia, dai, ispiriamoci a quel momento e prendiamo l'abbrivio e facciamo ancora un sacco di cose belle, perché le risorse ce le abbiamo. Manca pochissimo, allora fatemi ricordare The Walking Dead, contagio culturale, politica post-apocalittica, edito da Mimesis, narrazioni seriali, Massimo Scaglioni e Dom Holloway che sono stati con noi. Grazie Mara, ragazzi, grazie mille. Grazie. Ovviamente grazie a Cristian Goldoni, in regia se c'è stato Filippo Aureggi. Un abbraccio a tutti, ci ritroviamo sabato prossimo ancora con RadioTube.